punto e a capo. Una settimana di attualità. Abbiamo bisogno di continuità operativa, di un governo in perfetta efficienza, di una cooperazione istituzionale e politica ampia. Abbiamo bisogno di capacità di decisione. Abbiamo bisogno di tutto tranne che di una crisi al buio, senza che vi siano alternative valide al quadro politico stabilito dagli italiani con il loro voto. Tutto si può dire, tutto si può fare, ma non progettare un'alleanza con la sinistra in questa legislatura, camuffata da un governo di transizione, e neppure unire i propri voti a quelli dell'opposizione, sommando grottescamente i voti sottratti al Popolo della Libertà a quelli del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori. Tutto si può fare, ma non si può tradire il mandato ricevuto dagli elettori. A tutti i moderati di questo Parlamento propongo quindi un patto di legislatura per garantire coerenza e continuità con il programma elettorale e con le scelte condivise, rinnovando quel che c'è da rinnovare nel programma e nella compagine di governo. Decidiamo insieme quale sia la strada e quale sia lo strumento più indicato. Presenti 627, votanti 625, astenuti 2, maggioranza 313, hanno votato sì 311, hanno votato no 314, la Camera respinge. Buongiorno da Alessandra Tedesco, punti a capo, le notizie di una settimana in un'ora. Le avete riconosciute? Queste sono state le voci protagoniste della settimana. Silvio Berlusconi, che lunedì al Senato ha chiesto e ottenuto la fiducia. E poi il presidente della Camera, Gianfranco Fini, che il giorno dopo ha annunciato l'esito del voto di Montecitorio. Lo ricordiamo, i deputati hanno detto no alle due mozioni di sfiducia che erano state presentate dalle opposizioni e hanno dunque implicitamente rinnovato la fiducia a Berlusconi e al suo governo. Governo che rimane dunque in carica, ma il primo scoglio sarà lunedì, quando ci sarà il voto sulla riforma universitaria, voto che si preannuncia piuttosto complesso. Nel frattempo è stato creato ufficialmente un terzo polo che comprende Fini, Casini e Rutelli. La politica dunque protagonista di questa settimana di notizie. L'abbiamo detto, la Camera ha respinto le mozioni di sfiducia e Berlusconi resta in carica. Le opposizioni parlano di vittoria di Pirro e di grande instabilità. Ecco il commento di Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, nello speciale sul voto condotto da Daniele Biacchessi, andato in onda martedì. Il governo ha ottenuto di respingere la mozione di sfiducia, quindi rimane in carica con in una situazione, se lo dicevamo prima, di grande incertezza, indubbiamente. Questo è un voto che fotografa una situazione politica molto sfidacciata per la maggioranza, però naturalmente non sottovaluto il fatto che oggi Berlusconi ha ottenuto un successo. Non fa una bella differenza tra un Berlusconi che oggi doveva essere costretto a dimettersi e quindi si apriva una fase in cui, diciamo, lui non era più centrale, non era più in mano il bandolo della matassa, e una situazione invece in cui è Berlusconi ancora forte dell'alleanza confermata dalla Lega a gestire la fase che si apre ora. Sarà una fase, diciamo, molto difficile per quanto riguarda la stabilità e la governabilità, e probabilmente sarà una fase che si concluderà con elezioni anticipate nel giro di pochi mesi, ma la differenza è che ancora sarà Berlusconi a gestire in prima persona questa fase. Quindi è stato un successo di Berlusconi, è stato un insuccesso di Fini, che ha dovuto pagare con una frattura del suo gruppo e con, diciamo, anche la rimessa in discussione del suo progetto politico. Adesso il suo progetto politico credo che dovrà essere un po' rivisto e ci saranno delle tensioni interne al suo gruppo. Una l'ho già annunciato, Moffa, una dei moderati, diciamo, uno dei moderati, di quelli in cui il voto era in dubbio fino all'ultimo. Moffa alla fine ha votato la sfiducia, ma ha chiesto le dimissioni del braccio destro di Fini, di Bocchino, che è il coordinatore di Future Libertà, capogruppo, e quindi questo significa che si sta aprendo una, diciamo, pure una resa dei conti all'interno di Future Libertà, come era abbastanza prevedibile in caso di insuccesso parlamentare. La sfiducia respinta per tre voti, è vero quello che dici, ma non è che Bossi ha ragione, che comunque vada, forse è meglio andare alle elezioni? No, infatti è quello che dicevo, non credo che sia gestibile questa situazione, perché nel giorno per giorno un conto è avere la fiducia e un conto è gestire poi il Parlamento, la maggioranza parlamentare e l'azione di governo nel giorno per giorno. Questa situazione non consente assolutamente di andare avanti con una maggioranza che voglia essere operosa, perché la maggioranza si è sfidacciata. Quindi o si riesce nell'operazione di allargamento del centrodestra all'unica forza candidata è l'UDC di Casini, ma io non credo che questo allargamento oggi sia possibile, però vedremo, perché insomma la politica è piena di risorse. Altra analisi, quella di Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera e scrittore. Ha seguito la due giorni via SMS per il sito del Corriere e l'ha intervistato Anna Rita D'Ambrosio. Che cosa ti ha colpito di più di questa due giorni? Tante piccole cose che sarebbero divertenti se non fossero mortificanti. La Mussolini lanciata all'assalto di Fassino, vado per dirne una. Mi ha colpito anche vedere la foto segnaletica del colonnello Paglia, indicato come traditore, un uomo che è sulla sedia a rotelle per aver servito il paese a Mogadiscio. Aspetto che qualcuno gli chieda scusa. Constato che da una parte c'è una netta vittoria politica di Berlusconi, c'è una sconfitta palese di Fini, che ha perso tre suoi deputati, che ha sbagliato palesemente tempi e tattica di questo tentativo di buttare giù Berlusconi. Constato però anche che la vittoria di Berlusconi è tutt'altro che limpida, che due deputati del partito più anti-berlusconiano che esista, l'Italia dei Valori, passino alla maggioranza in circostanze poco chiare, dopo che avevano parlato di un mutuo da pagare, è una cosa. C'erano in Parlamento parecchi giornalisti stranieri che erano allibiti anche per le scene di esultanza, non sono abituati all'estero, certo, immagini. Senti, un'ultima domanda vorrei fartela su Fini, che quando ha sospeso la seduta dopo il voto della Polidori pare abbia ripreso addirittura a fumare. Questa forse è un'immagine, no, di questa giornata. Ma poverino, a un certo punto Fini ha preso anche una cragnata pazzesca contro la sedia, la sua poltronissima, che adesso il centrodestra gli chiede a gran voce di abbandonare. Sì, il voto della Polidori ha scatenato una mezzarissa, anche perché era stata una carta coperta da parte di Berlusconi, mentre la Siliquini ha fatto un intervento in aula motivando la sua fiducia. La Polidori è rimasta nascosta tutto il giorno nell'ufficio di Lucio Barani, vecchio socialista, ex sindaco di Aulla, che al momento buono l'ha portata in aula, poi l'ha portata direttamente da Berlusconi, che insomma si è molto compiaciuto. Fra i deputati che quasi a sorpresa hanno votato a favore di Berlusconi c'è anche, come avete sentito, quello di Katia Polidori di Futuro e Libertà. Sentiamola allora al microfono di Oscar Giannino nella trasmissione 9 in punto. Sentirsi da un giorno all'altro, un conto è restare nel centrodestra, sentirsi da un giorno all'altro passati all'opposizione è un trauma per chi ha una storia come la mia di appartenenza, non solo al centrodestra, ma di appartenenza e di coerenza ai valori. Era stato troppo. Ieri mi hanno chiesto in molti, ma allora perché ha firmato la mozione di sfiducia? Beh, quella era veramente tattica politica, era sempre coerenza, lealtà al gruppo di appartenenza, perché doveva essere un elemento di trattativa. Elemento che poi si è dimostrato inutile, ma perché tutti i successivi tentativi fatti dalle cosiddette colombe, di cui diciamo il portavoce era il presidente Moffa, che stimo tantissimo, e devo dire io ieri ho vissuto con lui un momento di, non di crisi, proprio di dolore profondo nel fare quella scelta, tutti i tentativi fallivano ormai non più, ripeto, per l'essenza della politica o per valori o per impegno o per contenuto, ma fallivano ormai per una presa di posizione troppo forte e dal mio punto di vista e da quello degli altri colleghi ingiustificata. Questo dunque è l'esito del voto, prima al Senato con l'approvazione della fiducia, poi alla Camera con il respingimento delle mozioni di sfiducia. Subito dopo però hanno iniziato a delinearsi naturalmente nuovi equilibri politici. Il premier Berlusconi ha annunciato trattative per recuperare alcuni parlamentari nelle fila del PDL. Sentiamo allora il Presidente del Consiglio intervenuto mercoledì a Canale 5. Io sto pensando a singoli deputati che militano nei partiti di cui non condividono più la linea. non solo qualcuno, ma diversi che hanno pagato ormai il loro debito di riconoscenza a Fini che li aveva messi in lista e che sentono innaturale la loro permanenza dentro un partito che è all'opposizione. Tra questi alcuni che sono già venuti da noi, ma che già ieri sera, le ripeto, si erano accresciuti di diverse unità. In contemporanea però sull'altro fronte è stata annunciata la creazione del Polo della Nazione, una terza coalizione, cioè che unisce Casini, Fini e Rutelli. Sentiamo. L'obiettivo del governo è allargare la maggioranza, il muro si chiama Terzo Polo. Il giorno dopo la vittoria di stretta misura alla Camera del governo nasce una nuova formazione politica, il Polo della Nazione, alla quale aderiscono Fini, Casini e Rutelli, così il leader dell'UDC. C'è un'opposizione responsabile, coordinata, forte, di più di 100 parlamentari, che decide di operare per il bene del Paese, di confrontarsi con il governo per tutte le iniziative eventualmente positive che vorrà assumere e contrastare quelle che non condivide, perché c'è bisogno di abbassare il tasso di litigiosità. Vani i tentativi di Silvio Berlusconi di inglobare nuovi deputati nel PDL, il Premier promette che molti in Future Libertà sono disposti a lasciare e nel vertice serale a Palazzo Grazioli pronostica il terzo polo fallirà e Gianfranco Fini è destinato a sparire. Ma nessuno al momento passa nel PDL, né dall'UDC, né tantomeno da Future Libertà e le colombe smentiscono convinte di voler andare con Berlusconi. Una situazione critica per il Premier in vista delle prossime votazioni alla Camera. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Punto e a capo. Altra notizia della settimana sono state le violenze dei Black Bloc infiltrati nelle manifestazioni di studenti e lavoratori martedì a Roma, proprio mentre la Camera stava decidendo sulle mozioni di sfiducia. Violenze che si sono scatenate in tutto il centro città, città che era stata precedentemente blindata proprio nel timore di scontri. Quasi 3.000 uomini in tenuta antisommossa, era stata istituita una zona rossa intorno alle sedi istituzionali, era vietato dunque avvicinarsi alla Camera, al Senato, a Palazzo Chigi, a Palazzo Grazioli e anche alle sedi dei partiti. Sentiamo allora la cronaca di quelle ore da Alessandra Schepisi. Vetrine rotte, auto incendiate, fioriere e cassonetti distrutti, san pietrini divelti, bottiglie sparse ovunque. All'ora del tramonto il centro di Roma è l'immagine della devastazione. Gli scontri cominciano in mattinata quando arriva la notizia della fiducia a Montecitorio. Un gruppo di manifestanti, o meglio di infiltrati, in particolare Black Bloc, muniti di spranghe, caschi, scudi, si scaglia contro le forze dell'ordine e lancia bombe carta e petardi. Gli agenti caricano e sparano lacrimogeni. Ma è a via del corso che la situazione degenera, con barricate, assalti ai blindati, lancio di sassi e fumogeni, una vera e propria guerriglia alla quale la polizia risponde con nuove cariche. Una decina di giovani con il volto coperto fa poi irruzione nella sede della protezione civile a via Ulpiano, spaccando vetrate e lanciando uova. Una giornata di terrore, soprattutto per i negozianti romani. Ci siamo molto spaventati, qui davanti c'è una camioncina della Nettezza Urbana che ha preso fuoco. Solo in TV ho visto delle scene del genere. Il bilancio è di 41 fermi, 40 feriti tra i manifestanti, 50 contusi tra le forze dell'ordine. Fortunatamente nessun codice rosso. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E dei 23 giovani fermati, 22 sono stati scarcerati, mentre uno agli arresti domiciliari, decisione dei giudici che ha scatenato nuove polemiche. Intanto, ieri il ministro dell'Interno Maroni ha riferito al Senato proprio sugli scontri. Sentiamolo. Questi cortei, formati da una maggioranza di studenti impegnata a protestare contro una riforma non condivisa, sono stati presi in ostaggio da gruppi organizzati di violenti che avevano il solo scopo di sfregiare una città, colpire i palazzi della democrazia, attaccare gli uomini delle forze dell'ordine. Una minoranza fatta di professionisti della violenza, estranei alle ragioni della protesta. Ancora una buona giornata da Alessandra Tedesco, stiamo ripercorrendo insieme i principali fatti di questa settimana. E ora parliamo di lotta alla mafia, perché da questo punto di vista è stata una settimana importante. L'antimafia di Milano ha inoltrato giovedì la richiesta di giudizio immediato per 174 persone arrestate nel luglio scorso durante la maxi operazione che aveva decapitato i vertici dell''ndrangheta, in particolare in Lombardia. E allora risentiamo il servizio di giovedì. Nuovi importanti sviluppi nelle indagini sull''ndrangheta. Mentre parte il primo maxi processo alle cosche calabresi a Milano, dopo i 300 arresti di luglio tra la testa e la punta dello stivale, il lavoro è andato avanti. Ed è andato avanti per clonazione, perché se è vero che i clan, quando si spostano dal feudo natio, riproducono antichi schemi e originari rapporti, nella piazza italiana privilegiata per i loro affari, Milano, vigono le stesse regole della casa madre, Reggio Calabria: imporre il silenzio, conquistare coperture, costruire collusioni nei punti strategici. E sono queste le coordinate che l'antimafia vuole scardinare lungo l'asse già tracciato dall'inchiesta Il Crimine, ha ricordato ieri il procuratore caporegino Giuseppe Pignatone. 5 mesi dopo quel maxi blitz, i magistrati di Reggio sono di nuovo a pochi passi dal Duomo, insieme ai colleghi meneghini, che oggi avviano il maxi processo in rito immediato all''ndrangheta milanese. Maxi nei numeri, con 174 imputati, maxi nei ruoli, perché davanti al giudice compaiono sia i capi delle 15 cosche lombarde che personaggi di altro livello, come l'ex direttore dell'ASL di Pavia. Sotto al Duomo, però, nonostante le inchieste, non abbiamo la fila di chi vuole parlare, ironizza il procuratore aggiunto Ilda Boccassini. Di sicuro ci sono invece i classici segnali delle estorsioni, ma di sicuro ci sono pure indagini che vanno avanti. A Reggio, da quel maxi blitz, altri filoni sono maturati. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E su questo sentiamo anche l'editoriale del direttore di Radio 24, Fabio Tamburini. La conferenza stampa delle procure della Repubblica di Milano e Reggio Calabria, tenuta ieri pomeriggio nel capoluogo lombardo, conferma che le inchieste sull''ndrangheta sono ad una svolta. Per la prima volta si svolgerà a Milano un maxi processo con 174 imputati, per i quali i magistrati hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato. E, come ha documentato nei giorni scorsi Radio 24 con una intera settimana dedicata alla primavera calabrese, la società civile di quella regione dà segnali di risveglio, seguendo una ventina di anni dopo l'esempio di quella siciliana. Mafia e 'ndrangheta possono essere battute soltanto rompendo il muro di omertà e connivenza che, come dimostrato dall'inchiesta in corso, hanno costruito anche al nord. Le vittime del racket devono denunciare, la società civile deve reagire e non far finta di non vedere, i media devono raccontare la verità. Radio 24 lo ha fatto e continuerà a farlo. Punto e a capo. Una vicenda di cronaca ben nota, il rogo alla ThyssenKrupp. Martedì al processo l'accusa ha chiesto la condanna a 16 anni e mezzo per l'amministratore delegato dell'azienda. Per la prima volta in un caso di incidente sul lavoro è stato ipotizzato il reato di omicidio volontario con dolo eventuale. Risentiamo allora il servizio. 79 anni di carcere per i 6 dirigenti imputati, supermulta, stop ai finanziamenti e confisca per l'azienda. A tanto ammontano le richieste della pubblica accusa al processo di Torino per il rogo alla ThyssenKrupp del 6 dicembre 2007, in cui morirono 7 operai. Il PM Raffaele Guariniello, uscendo dall'aula, ha detto di aver indicato ciò che è giusto in scienza e coscienza. Poco prima aveva quantificato la pena per l'amministratore delegato Harald Espenan, a cui per la prima volta in un procedimento per infortunio sul lavoro viene contestato l'omicidio volontario con dolo eventuale. Chiediamo la condanna alla pena della reclusione di anni 16 e mesi 6. Pesanti anche le altre sanzioni proposte: 13 anni e 6 mesi per Marco Pucci, Geral Prignitz, Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri, 9 anni per Daniele Moroni, tutti per omicidio colposo. Per l'azienda i PM hanno chiesto, oltre a una multa da 1,5 milioni di euro e alla revoca dei finanziamenti, anche la confisca del prezzo del reato, cioè quegli 800.000 euro che la Thyssen ha risparmiato non installando a Torino un impianto di rilevazioni incendi. Le richieste però sono state ritenute inadeguate dai familiari delle vittime. In aula la madre di Rosario Rodinò, morto nel rogo, ha urlato: ci vuole l'ergastolo. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altra vicenda di cronaca che diventa vicenda giudiziaria, la strage di Viareggio, 38 indagati, fra cui l'amministratore delegato delle Ferrovie Moretti. Sentiamo allora il servizio da Firenze. Dopo 18 mesi di lavoro attento e approfondito, la Procura di Lucca ha emesso il proprio verdetto sulla strage di Viareggio, individuando i probabili responsabili. Sono 38 persone e 8 enti iscritti nel registro degli indagati e accusati a vario titolo di incendio e disastro ferroviario colposo, omicidio colposo, lesioni colpose plurime, violazione delle prescrizioni antinfortunistiche e della responsabilità amministrativa degli enti. L'inchiesta ha colpito i vertici delle Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Gatex Rail, proprietaria del carro merci che deragliò, la società che gestisce la rete ferroviaria italiana, la ditta di revisione che montò l'asse che cedette e causò il deragliamento, la società proprietaria del convoglio ferroviario. Tutti tremano, da Mauro Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie, fino ai tecnici responsabili dell'officina tedesca che aveva revisionato l'asse. Le FS dichiarano di attendere con serenità gli sviluppi delle indagini della magistratura di Lucca, mentre il sindaco di Viareggio, Luca Lunardini, esprime profonda soddisfazione anche a nome di tutta la comunità. Ricordiamo che il 29 giugno 2009 mancavano pochi minuti alla mezzanotte, un treno merci deragliò mentre stava entrando nella stazione di Viareggio. Trasportava cisterne di GPL che si incendiò, provocando una serie di violente esplosioni. Morirono 32 persone, furono devastate vite, strade e abitazioni. Ubaldo Cianciulli, GR24, Il Sole 24 Ore, Firenze. Punto e a capo. Veniamo all'economia. Giovedì Confindustria ha tracciato un quadro non certo confortante della situazione italiana. Il centro studi di Confindustria ha limato al ribasso le stime del PIL, prevedendo che la crescita si fermerà all'1% nel 2010. Inizialmente invece era stato previsto un 1,2%. E invece si fermerà all'1,1% nel 2011 rispetto a un 1,3% che era stato previsto inizialmente. Risentiamo allora il servizio. Ancora una volta restiamo indietro. A dirlo il centro studi della Confindustria, che non usa sfumature per descrivere la situazione del paese. In Italia la malattia della lenta crescita non è mai stata vinta. In altre parole, il copione si ripete dal 97. Da Viale dell'Astronomia scrivono che aumenta il conto delle riforme mancate o incomplete o inadeguate rispetto a quanto realizzato dai partner concorrenti. Partner come la Germania, con cui il confronto è impietoso. Dal 2008 a oggi il numero di occupati è diminuito di 540.000 persone, senza contare le ore di cassa integrazione che hanno un impatto pari a 480.000 unità di lavoro. Il problema è che i lavoratori continueranno a diminuire per tutto il prossimo anno. La crisi ha provocato una contrazione economica senza pari, il recupero è indeciso oltre che lentissimo. Così, scrivono gli economisti del centro studi, non si ritornerà sui valori pre-recessivi se non tra 5 anni. Per riagguantare l'andamento dei primi anni 2000 bisognerebbe crescere il 2% ogni anno, un obiettivo raggiungibile, ma per coglierlo gli strumenti messi in campo appaiono insufficienti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulla revisione delle stime del PIL, Sebastiano Barisoni in Focus Economia ha sentito il direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi. La revisione all'ingiù dipende quindi da appunto aver verificato che la crescita italiana quest'anno è stata più bassa di quel che noi stessi stimavamo e speravamo. Ricordo che avevamo messo un 1,2 solo un paio di mesi fa per quest'anno e a giugno un 1,6 per l'anno prossimo contro l'1,1 che indichiamo adesso. Oltre a questo va detto che invece continua a premere le rilevanti perdite di competitività che il nostro paese ha registrato prima della crisi e che ha visto accentuarsi durante la crisi. La crisi ha risottolineato come noi abbiamo un problema di bassa crescita, viviamo una malattia di bassa crescita, il biennio 2005-2007 ci aveva visto migliorare la nostra dinamica, la dinamica della produttività, la dinamica del PIL, contavamo sul fatto che questo miglioramento fosse strutturale, quindi si ripresentasse durante la ripresa e facesse ripartire l'economia italiana più velocemente, come è successo per esempio con la Germania, o nella Germania, viceversa, dobbiamo purtroppo registrare che ciò non accade e quindi cambiare i numeri. Punto e a capo. Altra notizia della settimana, la liberazione di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, lo ricordiamo, era stato arrestato in Gran Bretagna per un'accusa di stupro che è stata formulata in Svezia. Allora risentiamo il servizio. We have a rumor today from my lawyers in the United States, we haven't confirmed yet that there has been an indictment. Quello che lo preoccupa di più è l'eventualità di essere estradato negli Stati Uniti, che tentano in ogni modo di incriminarlo. Julian Assange parla all'uscita della High Court of Justice di Londra, che lo ha rimesso in libertà su cauzione. Una libertà condizionata perché Assange dovrà indossare il braccialetto elettronico e presentarsi tutti i giorni alla stazione di polizia più vicina alla villa nel Suffolk, dove ha trovato ospitalità. Il New York Times riferisce che gli inquirenti stanno setacciando ogni possibile possibile pista pur di incastrare e perseguire legalmente il fondatore di WikiLeaks. Secondo l'australiano, gli Stati Uniti lo avrebbero già incriminato. I suoi avvocati americani sono venuti a conoscenza di voci non confermate in questo senso. In particolare, si cercherebbe di provare che Assange ha incoraggiato o perfino aiutato Bradley Manning, l'analista dell'intelligence militare considerato la talpa di WikiLeaks e già condannato al carcere a vita. In questo caso, Assange sarebbe trattato come una spia e non come un giornalista, quindi rischierebbe davvero grosso. Cristina Balotelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Julian Assange era in pole position per essere eletto uomo dell'anno dal settimanale americano Time, che invece alla fine gli ha preferito il creatore di Facebook. L'elezione del personaggio dell'anno di Time Magazine è cosa seria. I lettori questa volta non avevano avuto dubbi. Il personaggio dell'anno, secondo loro, è Julian Assange. Ma la rivista ha deciso diversamente. Time Magazine's Person of the Year for 2010 is Mark Zuckerberg. È Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, l'uomo che ha fatto il massimo per influire sugli eventi dell'anno. L'annuncio è stato fatto al Today Show della NBC dal direttore della rivista Rick Stengel. Paura di eleggere un uomo troppo scomodo, come accadde nel 2001, quando Rudolf Giuliani venne eletto al posto di Osama Bin Laden, nonostante la dicitura del riconoscimento sottolinei che il titolo va a chi, nel bene o nel male, ha fatto il massimo per influire sugli eventi dell'anno? Chissà, ma c'è sicuramente un'altra ragione. Abbiamo tenuto in gran conto l'opinione del pubblico, spiega in diretta Stengel. Assange won our poll by a great margin, but of course Lady Gaga was number two. Al secondo posto del sondaggio online, sorride, avevano però messo Lady Gaga. Come a dire, essere sulla bocca di tutti è una cosa, cambiare davvero il mondo è un'altra. E questo ha fatto Facebook. This year they passed 500 million users. I mean, it's an extraordinary number. Quest'anno ha superato i 500 milioni di iscritti, spiega il direttore. Se fosse una nazione, sarebbe la terza più grande al mondo, dopo Cina e India. Facebook ha cambiato il nostro modo di vivere, insomma, WikiLeaks no, almeno per ora. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Riprendiamo a parlare dei fatti della settimana parlando soprattutto di cinema, visto che il periodo prenatalizio e natalizio è sempre molto ricco di nuove uscite cinematografiche. E infatti inizia oggi la pioggia natalizia di film in sala, con il periodo più importante per gli incassi. Solo Natale in Sudafrica di Phil Mauro mette in campo ben 800 copie, 650 invece per La banda dei Babbi Natale di Aldo Giovanni e Giacomo, 420 copie per The Tourist con Angelina Jolie e Johnny Depp, 250 copie invece per La bellezza del somaro, commedia di Sergio Castellitto. Non ho paura di sfidare cinepanettoni e film in 3D, dice Castellitto, che ha spiegato il suo film Grottesco ritratto della sua generazione a Marta Cagnola. Sentiamolo. Questa è una generazione, come dire, umoristica. Umoristica perché si è presa spesso un po' troppo sul serio, no? Come dire, siamo anche stati una generazione che ha tentato di essere giustamente, per certi versi, per certe situazioni, migliore dei propri padri. Insomma, io mi ricordo più padri padroni, padri davanti ai quali dovevo dire perché sì o perché no. Insomma, no? Mi sentivo dire, anzi, perché sì o perché no. Invece noi siamo stati padri disponibili al dialogo e quant'altro. Forse questa disponibilità certe volte ha creato più danni che soluzioni in qualche modo, o perlomeno non soltanto soluzioni. C'è anche una critica che è un po' inedita di un tipo di uno stile di vita che di solito è visto solo in maniera positiva, sì. Tollerante, aperto. Certo. Però voi avete deciso di... Eh beh sì, perché c'è, come dire, una è facile prendersela con chi è di per sé ottuso o con chi è di per sé chiuso o, come dire, ostile a certe cose e quant'altro. No, noi, come dire, mettiamo in scena una coppia, un milieu borghese con una figlia meravigliosamente perfetta. E invece poi entra un virus in questa perfezione, un po' radical chic, certo, diciamoci la verità, fa il suo ingresso un virus, un batterio che smuove le cose. E allora t'accorgi che pure chi era più disponibile e quant'altro vacilla. Vacilla perché? Perché poi se te lo toccano, se toccano il tuo orticello, tu non sei così disposto. Insomma, l'italiano ha una propensione al conservatorismo come dire, naturale. A un certo punto si pensa che il fidanzatino misterioso della figlia sia il ragazzino nero. Sì. Bellissimo, è il futuro, Obama, cioè, yes, we can. Yes we can. E invece no, non è lui. Cos'è la vecchiaia, l'unico tabù vero? Beh, insomma, intanto è indovina che viene a cena, che diventa in quel momento la bellezza del somaro, no? E poi, appunto, è una società, come dici appunto giustamente te, che, come dire, ci consente tutto, ci consente di essere ragazzi neri che diventeranno e sono diventati presidenti degli Stati Uniti. Forse l'ultimo tabù che resiste, forse l'ultimo gesto più o meno inaccettabile, se possiamo dire così, è quello di essere vecchi. Vecchio è improduttivo, vecchio deve farsi da parte, quant'altro. Forse la distinzione fra vecchio povero e vecchio ricco, ma quello potrebbe essere una distinzione che riguarda anche i gay. Gay ricco è più tranquillo di gay povero, no? Quindi insomma, tante distinzioni o sottodistinzioni che si potrebbero fare. Però la scommessa, lo scandalo comico del film è quello. Entra un vecchietto che non fa un mestiere solo, molto semplice e molto onesto. È vecchio, non fa una cosa che non è. A fronte di una generazione che a 50 anni fa finta di essere ancora quarantenne o trentenne e di una generazione, poveracci, di adolescenti che non vedono l'ora di crescere, di smaltirlo questo genitore amico che ascolta, che parla. C'è un signore che fa... E questo signore c'ha gli occhi, la dolcezza, io direi anche la sensualità di Enzo Iannacci. L'uscita Natale è un'opportunità e un rischio insieme? Sì, la Warner Bros. Crede moltissimo nel film e crede che questo film possa in qualche modo diventare un'alternativa, ecco. A chi mi chiede il confronto e dello scontro con i cine panettoni, mi limito a dire che di quel panettone noi siamo solo l'uva passa. Come abbiamo detto, grande uscita anche per Aldo, Giovanni e Giacomo, ma perché anche loro hanno deciso di portare al cinema una storia natalizia? Sentiamo che cosa hanno risposto sempre alla nostra Marta Cagnola. In realtà era necessaria, siccome avevamo bisogno di un giorno particolare dell'anno in cui tutti i nodi vengono al pettine, tipo io che sono bigamo nel film, bigamo a due famiglie, prometto di essere presente a tutte e due le cene, non c'è un altro giorno nell'anno, Capodanno, Natale più o meno quello, per cui era necessario. Abbiamo provato anche a farlo in agosto, così, ma era necessario. La gente A Ferragosto. Cosa c'entra Ferragosto? Non festeggio neanche Ferragosto. Io semino a Ferragosto. A Pasqua, ma no, perché l'avete fatto a Pasqua con i tuoi, cioè con chi vuoi, capito? Lascia parlare a noi. È Scusa. Importante il Natale. Intanto però perché c'è la esatto, economica della borsa. E intanto però ha fatto una grossa uscita natalizia, non vi fa un po' paura? Ma noi siamo tre tipi molto coraggiosi. Veramente, il coraggio è la nostra qualità migliore, l'abbiamo sempre sostenuto, sì. Ma nella vita, perché non abbiamo paura? Noi non siamo tre cacasotto, siamo non devi esprimerti in un altro modo. Siamo tre uomini di grande coraggio, quindi lo manifestiamo in tutte le nostre... Io non lo so, io sento che sono incosciente, discusso. Potremmo battere gli incassi così come potremmo arrivare ultimi, ma non ci potete essere soddisfatti interiormente. Se perdiamo gli incassi, la soddisfazione... lascia perdere, scusa. Pochissime parolacce e non ci sono donne nude, come mai? Ma perché l'avevamo pensato per la radio e quindi era inutile per le donne nude, sì, per radio non si non sarebbero si viste, no? Quindi abbiamo detto perché fa spogliare delle donne quando perché poi secondo me poi vede. Tra l'altro noi se lo spettatore si concentra su di noi con gli occhi le spoglieremmo anche, no? Perché noi siamo pieni di no prima o poi lo facciamo zitto, questo zitto, passo zitto, di spogliare zitto. Le donne non si può dire niente. Non parlare la Marta. Tutti usano gran pezzi di gnocca e noi mai niente, ma com'è? Lasciamoli così. Però a differenza degli altri voi avete avuto Mina. Noi abbiamo avuto Mina, certo, perché è venuta a piangere a casa nostra, a chiedere assolutamente di fare delle canzoni e noi le abbiamo lasciate fare. C'era la Mara Maionchi che faceva il provino, no? E ha detto, per me va bene, per me va bene. Allora ho detto, se lo dice la Mara va bene. Cioè, digli di no a Mara Maionchi. Esatto, ci pestava. Cosa vi aspettate, visto che comunque un sacco di occhi puntati, un sacco di attesa, un sacco di schermi? Ma di vendere questo film in America e in tutto il mondo, ecco. E anche in Svizzera, perché c'è questo connubio che noi amiamo sempre tra Italia e Svizzera. Io spero di andare a Grenoble, anche se in Francia credo. Io sto studiando inglese e anche un po' di cinese. Non lo so. Dovresti studiare un po' di italiano. Anche russo. non studierei, visti i tempi, secondo me il russo serve. E abbiamo chiuso in bellezza con qualche risata che veramente ci voleva dopo questa settimana decisamente impegnativa. L'avete sentito, una settimana segnata soprattutto dalla politica, e staremo a vedere a questo punto che cosa succederà a partire da lunedì in poi. L'abbiamo già detto, lunedì ci sarà un primo scoglio per il governo che comunque ha ottenuto ancora la fiducia, che è la riforma universitaria. Poi ci sarà naturalmente la pausa natalizia dei lavori parlamentari, ma non è detto che la politica si fermi, visto che naturalmente ci sono in ballo trasferimenti da un partito ad un altro. Anche per oggi è tutto per questa puntata di Punte a Capo. Grazie in regia Pietro Lacorte. Con Punte a Capo, una settimana di notizie in un'ora. Ci risentiamo la prossima settimana. Una buona giornata da Alessandra Tedesco.